Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare questa sera a Smart City di tatto virtuale. Siamo partiti ieri sera da una pubblicazione che ha determinato insomma molto entusiasmo, pubblicazione su Transaction on Haptics, entusiasmo un po' generale anche riscontrato sul sito di Science per una nuova tecnologia sviluppata in Italia all'Università di Siena, dove come ieri c'è per noi per parlarci di questa tecnologia, soprattutto del mondo, sarà questo il tema di questa sera, delle applicazioni del tatto virtuale, Domenico Pratichizzo, professore di robotica appunto all'Università di Siena, ma anche senior scientist presso l'IIT di Genova, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Buonasera Pratichizzo, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, tatto virtuale, ieri abbiamo spiegato che voi avete sviluppato degli anelli e dei ditali che sono in grado di trasmettere queste sensazioni tattili, quindi permettendo a una persona di percepire la consistenza di un oggetto che magari si trova a 1000 chilometri di distanza. Allora, vediamo un po' quali sono le applicazioni. Alcune sono facilmente intuibili, i videogiochi. Sì, i videogiochi sono l'applicazione più importante perché per ora hanno coinvolto solamente il canale visivo e uditivo, certo. C'è la parte tattile è importantissima, sentire il peso di oggetti che manipoliamo oppure di tasti che tocchiamo e altri oggetti ancora. E poi ecco, uno dei settori, immagino, dove ci può essere anche una ricaduta più veloce, più immediata, è quello della chirurgia robotica. Ci spiega? Sì. Dunque, mentre nel videogame la cosa più importante è l'indossabilità, cioè per andare in coppia con tutto ciò che Oculus Rift o altri elmetti di realtà virtuali bisogna essere altamente indossabili, nel campo medicale l'indossabilità non è un requirement estremamente importante, è invece molto importante il realismo della sensazione. E nel tatto noi siamo diventati molto esperti perché sfruttiamo proprio questo canale della deformazione cutanea che è molto molto informativa e che abbiamo recentemente implementato nel robot chirurgico Da Vinci insieme alla Intuitive Surgical, l'azienda che produce il robot, proprio per applicazioni di questo genere. Ecco, bisogna tenere presente che quando opera un chirurgo senza l'ausilio normalmente di un robot si affida molto anche al tatto, perché non sempre riesce a vedere bene dove sta mettendo le mani. Quindi la chirurgia robotica offre alcuni vantaggi, perché per esempio uno può mettere una telecamera dentro il paziente mentre il chirurgo non ci può entrare naturalmente, però si sacrifica l'aspetto tattile, la parte tattile, e quindi voi volete restituirgliela. È importantissima. L'esempio che facciamo tipicamente è questo: tumore al polmone, il polmone quando viene operato attraverso il robot chirurgico collassa perché l'aria viene completamente fuori e si perde traccia di dove è il tumore. Allora, senza feedback tattile il chirurgo non sa più assolutamente cosa rimuovere, proprio perché l'immagine non corrisponde più al polmone collassato. Quindi il tatto viene in aiuto. E poi c'è il mondo della riabilitazione. Sì, il serious gaming, videogiochi fatti apposta per riabilitare, dove il tatto è fondamentale. L'ictus, per esempio, impatta la mano e la mano deve essere riabilitata attraverso questi dispositivi. Ecco, queste però tutto sommato sono delle applicazioni, non voglio dire ovvie, ma abbastanza facili da immaginare. Cioè abbiamo bisogno di percepire il tatto di qualcosa che esiste e trasmettiamo questa sensazione. Però c'è tutto un mondo di applicazioni in cui si potrebbe usare il tatto per trasmettere informazioni di altro tipo. Certo, guardi che noi, tipicamente, gli esseri umani interagiscono a livello visivo e uditivo. Il canale tattile è stato sempre un po' tralasciato, anche qui per una serie di motivi. Anche culturali, anche religiosi, ma anche psicologici. Bene, grazie a queste tecnologie ci si può toccare senza invadere lo spazio per il personale e quindi possiamo immaginare di utilizzare il canale tattile come un canale di comunicazione dove non necessariamente trasmetto un segnale tattile, ma un segnale di guida, un segnale di pericolo. Ecco, facciamo un esempio però. Un esempio: il tatto è molto più veloce rispetto agli altri sensi. Se io potessi inserire attraverso i nostri ditali o addirittura nel sedile di un'auto dei segnali di pericolo che non necessariamente corrispondono a un tatto virtuale, certo, ma io potrei avere un'immediata reazione da parte del pilota al pericolo che sta sopraggiungendo. Quasi un riflesso. Per esempio, al posto di quel famoso cicalino, no, che c'è su tutte le automobili oggi quando uno fa la retromarcia, basta distrarsi un attimo, non lo si sente più. Invece, se ti arrivasse una manata sulla schiena quando stai andando a sbattere contro, no, l'idrante, probabilmente ti fermi. Assolutamente. È questo il concetto. La parola distrarsi un attimo è importantissima, perché mentre noi siamo bombardati di informazioni a livello visivo e uditivo, il canale tattile è libero, quindi sfruttare quello per veicolare informazioni di pericolo è molto molto importante. Dunque abbiamo parlato di come voi trasmettete queste sensazioni tattili di rugosità e forma degli oggetti. C'è un altro filone di ricerca che vi vede impegnati, non solo voi, nel cercare di trasmettere anche le sensazioni di peso. Ci può dire qualcosa? Sì, il peso, soprattutto il peso significativo, viene percepito con il sistema muscolo-scheletrico. Noi stiamo sviluppando delle fasce da braccio che sono opportunamente ingegnerizzate proprio per riuscire ancora a deformare la pelle, ma far percepire attraverso il movimento di masse forze, peso, sempre con il pallino dell'elevata indossabilità. Va bene, grazie, grazie Domenico Pratichizzo e avanti così. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.